10. Alla 10. Basso, chi sei? Natalino. E allora? Annuncio Magnum Gaudium Abemus Antennam. Chi habet portatum SDA? Sì, signore. Ah, visto. Pazientate prima per tu de quindi adesso sei fuori tentando di montarla. Sono sul tetto con i dipoli, la mantellina mi sono messo. Io. Avanti, sono 10. Buonasera. Grazie, buonasera. Mario Porto Torres, SQSY, qua a Barra Mobile, verso Sassari. Niente, vi saluto, vi sento benissimo. State arrivando a piombo qua, tranquilli. Sì Mario, anche tu stai arrivando molto forte. Qua Gianfranco da Sassari, con Natalino da Sassari che te lo mando avanti. Vai Natalino. Ciao Mario, ben sentito, per la prima volta che ti ascolto da questa stazione, però la colpa è mia, c'ho l'antenna tutta messa male. Avanti Mario, ancora a te, salutoni. Natalino Alfa 1 da questa parte. Arrivi, ecco scusate, avevo spento la macchina, quando spengo mi si stacca tutto. Arrivi fortissimo, arrivi benissimo, ti sento bene, quindi l'antenna funziona, non so se stai andando con quella comunque. Io da Porto Torres purtroppo ti ho sentito, diciamo così, nominare, ma non ti ho sentito, diciamo, in diretta. Comunque vi sento bene tutti, io sono qua praticamente a Città Mercato, Conad, perciò non lo so, c'è un'antenna piccolina in macchina, ma se mi sentite bene va bene. Tutto lì, va benissimo. Avanti non mi ricordo più il nome, vedi. La vecchiaia fa pure gli scherzi, mannaggia. Gianfranco Mario, Gianfranco. Ma non sei di Sassari, confermi? Allora, sì, io sono nativo di Sassari, però vivo a Porto Torres. Nativo, attenzione. Ma non vissuto, vissuto fuori. Posso fare un'ipotesi, Bologna? Assolutamente sì. Riprendi Natalì. Vabbè, io ti ascolto bene anche se ho l'antenna piena d'acqua e ho mare stazionario, infatti devo fare passaggi corti perché temo di bruciare l'apparato. Come si fa ad avere l'antenna piena d'acqua, mannaggia? Bisogna svuotarla, capito? Se no bisogna mettere un un qualcosa che la fa scolare, insomma, fargli un buco da qualche parte, per non farla, diciamo così, rimanere stagnante l'acqua. Magari fare un tentativo di questo tipo, un paio di buchi, non so com'è, che tipo di antenna hai comunque. Sto solo ipotizzando, Va bene, sì, comunque Bologna, Gianfranco, guarda, io per i nomi veramente sono negato. Sì, Bologna, 45 anni, 45 anni è un po', diciamo, di Bologna, Emilia-Romagna, però, diciamo, non mi sono dimenticato del fatto che sono sardo. Tanto è vero che lo sassarese lo fa vedo buro, ma un bemmi, avanti. Sicuramente molto meglio di me. Che sono di Sassari, però non lo parlo molto spesso il sassarese, più che altro quando lo parlo lo rovino tutto lì. Vediamo se c'è qualche altro che vuole entrare su 10. Negativo, siamo noi tre. Arrivi molto bene comunque per essere di lì a alla Conade. Immagino che stia piovendo, qua c'è sempre bel tempo, o meno, e quindi siamo combinati così. Riprendi Natalì, quindi la stai già, l'hai scartata, l'hai tutta bella assemblata, oppure stai guardando il manuale? No, non l'ho manco aperta, a dire la verità. L'ho messo il collo lì, in attesa di migliori occasioni. Però devi guardare dentro, sia che magari ci abbiamo messo il solito mattone, che manca qualche pezzo, prima che passino i giorni è meglio controllare che ci sia tutto. Ci siamo lasciati qua e ci ritroviamo qua. Buonasera, Marco Scorpion, e io sto andando lo stesso a ritirare il pacco che è arrivato nel punto di consegna. Bene, bene. Ciao Marco. Finalmente in quella villetta mi è arrivata l'antenna e ce l'ho qua, adesso la apro, dai, vi lascio al vostro QSO, già vi ascolto, mi ha consigliato di aprirla, sa che manchi qualche pezzo, e adesso vado e la apro. Hai ragione, perché non mi ricordo se sono 6 giorni, forse massimo, di tempo per comunicare, perciò comunque preferirei aprire subito e immediatamente fare la segnalazione qualora c'è un problema, dai, adesso figurati, speriamo che sia tutto a posto, speriamo che sia tutto ok, Natali, finalmente, abbiamo l'antenna, avete fumate bianche, abbiamo l'antenna. Saluto chiunque fosse in ascolto, sentito che qualcuno ha salutato, ciao Marco, però no, non ho capito chi è, e magari facciamo venire avanti l'altra persona che ha salutato, e dopodiché riprendi tu Gianfra, sentiamo un po', intanto attendiamo che Natalino ci dica qualcosa in merito. Sì, avanti la stazione che ha salutato, no, negativo, ti mando avanti Mario allora che si trova alla Conad, Marco. Buonasera, ripieno ascoltato. Stavo dicendo che il pacco tuo te l'ho ritirato io e quindi me lo sto godendo io adesso. Riprendi Mario. Ah, Gianfranco, ok, saluto Marco, buona serata qua da Mario, questi greca da Ponto Torres qui alla Conad di Sassari. Volevo dire, Natalino, fai il video mentre apri il pacco, perché poi ti possono dire che il mattone ce l'hai messo tu, eh? Vabbè, io sono sempre più diffidente, chiaramente, però. L'esperienza insegna, succedono anche queste cose, mannaggia. Vabbè, ma comunque speriamo di no, dai, speriamo che ci sia l'antenna, così almeno la puoi mettere e poi sarai soddisfatto. Io ti volevo chiedere una cortesia, Gianfranco, ascoltami, io siccome sto provando un baracchino che, guarda, non riesco a provarlo in FM, io chiedevo se qualcuno aveva l'FM per provare la modulazione di questo affare qua, perché mi è arrivato dalla riparazione, però per un controllo mi hanno detto che la modulazione è bassa. Ora volevo sapere se effettivamente, parlando con delle stazioni vicine, risulta la stessa cosa oppure no. Ecco, chiedevo solo questa cortesia, eventualmente per il prossimo passaggio mi fai sapere qualcosa. Avanti Marco, se mi stai ascoltando, con la buonasera rinnovata. Saranno delle brioche sicuramente. Allora, quando vuoi Mario mi dai l'ok e facciamo un passaggio in FM. Ma vai pure, tranquillo. Ciao Marco, a dopo. Ok, esecutivo. Mario, ma sei in FM? Siamo solo qua, eh. Il titolo di la modulazione è bella, potente, insomma, se è poca, basta, insomma. Spiegami un attimo, voi, perché sto impazzendo, perché ho parlato con te, so che me l'ha messa a posto, ma adesso che lui degli strumenti è distrutto, perché tutto lì, volevo una conferma, insomma. Sì, afferma allora che la radio non è stata come mai, ma sono se Natalino ha già spacchettato. Buonasera. Avanti, buonasera. Buonasera a tutti, ciao Gianfranco. C'è l'altro amico, non so se mi ascolta, avanti. Sì, benissimo, fortissimo, buonasera. Mario, puoi seguire a Porto Torres, qua a Sassari, avanti pure. Ah, ok, sono il famoso Mario che non sentivo da Sassari, dai. Saluto da parte di Luca, avanti Gianfranco. Sì Luca, c'è anche Natalino che l'ha arrivato il regalo e si sta tentando di aprire la scatola che non si vuole aprire per dispetto, dopo che l'ha attesa tanto sta attendo. Mario, comunque ti volevo dire che guardando bene anche qua la radio è più o meno a livello di quella FM magari è più, perlomeno a me piace un pochino di più. Poi probabilmente a causa del microfono da palmo involontariamente ti allontani, ti avvicini e allora è anche comprensibile, ma penso che non sia niente di particolare. Poi ci dirai cosa, che apparecchio è quello lì, ecco. Vediamo se Natalino riprende, se no di nuovo a Luca. Negativo, Luca riprende, neanche Luca riprende. Mario, quindi hai capito un po', non va male l'FM, diciamo una piccola regolatina, dipende solo dall'apparecchio che stai usando, perché quelli nuovi, già l'hai visto dentro in che condizioni sono piccolissimi i trimmer, quindi sono, ci vuole proprio un micro cacciavite. Cappa, sì, No, ma infatti io sto usando proprio uno di quelli nuovi, l'apparato in questione è un Albrecht, non so se si chiama Albrecht o Albrecht perché è tedesco, comunque vabbè, è germanico. Ed è praticamente un apparato omologato, non lo so, io adesso in FM non ho una grande esperienza con questo apparato qui di modulazione, ma in genere, insomma, perché ho avuto dei problemi, ho dovuto portarlo in assistenza e me l'ha sistemato, perché non andava proprio la modulazione, ecco, tutto qua. Chiaramente se dovessi fare un confronto a prima non riuscirei a farlo, ma comunque visto che mi sentite, insomma, non c'è problema, via. Poi chiaramente adesso vediamo, voglio vedere se effettivamente ci può essere un potenziometro da poter, così diciamo così, in FM alzare un pelino la modulazione. All'esterno qui per il My Gain penso che sia tutto al massimo, perciò non lo so più di così. Più di così non posso fare. Poi vabbè, le condizioni dell'antenna sono quelle di un'antenna di 70 cm, perciò non è che c'è tutta questa grande antenna in macchina, quindi insomma bisogna anche un po' accontentarsi. Però mi avevano detto che da casa, mentre lo modulavo in FM, la modulazione era completamente di un altro pianeta, nel senso che non si sentiva proprio. Evidentemente c'ho qualche problema a casa con, non lo so, con l'antenna, col rosso, oppure questo qui non si adatta bene come si adatta all'altro baracchino, perché io poi uso da casa un alimentatore switching che non è proprio uno di quegli alimentatori lineari con trasformatore eccetera, roba giapponese, quindi vabbè, lascia un po' il tempo che trova. E niente, comunque vabbè, l'importante è che adesso si metta a funzionare, che funzioni, via, che mi sentiate. Poi del resto non c'è problema, a tutto c'è rimedio ovviamente. Eventualmente nelle peggiori delle possibilità si mette un microfono preamplificato e si risolve il problema, tutto lì. Va bene, vediamo un po' se è arrivato Luca o Natalino, se hanno spacchettato il tutto, avanti. Il lavoro di questo psicologo c'è tutto Gianfra, sono tre sezioni, uno dentro l'altro più quello dove c'è la bobina. E quindi sei a cavallo, ti manca solo la pazienza per metterla. Guarda, puoi anche andare adesso sul tetto, tanto in questa bella giornata in un attimo monti tutto. Avanti, vediamo se è rientrato anche Luca. Luca, niente, Luca non c'è. Vediamo se Marco ha ritirato il pacchetto. Marco, anche lui si sta farando la scatola. Mario, sì, dentro comunque si può regolare, c'è, per l'FM c'è un piccolo trimerino, molto piccolo ovviamente, che si chiama FM Dev, ci dovrebbe essere scritto, che non è altro che la deviazione per aumentare un pochino la radio, non bisogna aumentarlo troppo perché sennò poi non si capisce niente, quindi un piccolo tocchettino di qualche decimo di millimetro dovrebbe andare bene. E per l'AM è lo stesso, c'è una dicitura serigrafata con scritto AM mod e lì ti puoi aumentare un pochino l'AM, ma se non ricordo male quell'apparecchio lì dovrebbe avere anche il mic gain, il guadagno microfonico. Magari quello lì non è girato, diciamo, tutto, non è tutto aperto. Allora, il microfono è al massimo perché l'ho alzato oggi, ho aperto il microfono e dentro c'è un potenziometro che si può alzare, in più il mic gain proprio del baracchino è al massimo e adesso farò appunto quelle prove che tu mi hai detto, dal momento che c'è questo micro trimmer, micro potenziometro, io possiedo cacciaviti proprio al top della serie, che sono minuscoli, quindi possiamo andare eventualmente a dargli una giratina verso l'alto. Non lo so, voglio provare, giusto così, per non mettere un altro tipo di microfono, ecco. Anche perché poi, vabbè, il preamplificato a volte può essere un rimedio, ma a volte può essere una disperazione, quanto potrebbe innescare, eccetera, dipende poi sempre dall'apparato e dal tipo di preamplificato che si mette, quindi è un po' un terno all'otto, è un prenderci, come si dice. Comunque vabbè, niente, l'importante è che adesso si riesca a modulare, ecco. Ma rispetto a prima che non andava, adesso sono molto felice, anche perché poi ho avuto una spesa di 60 euro a farlo mettere a posto quando non modulava, quindi non era poi evidentemente un danno così grosso, ecco, perché in genere quando si mettono le mani in questi apparati qui scattano i 100 euro come uso ridere. Va buono, Natalino, spiegami cos'è una Game Master con l'antenna lì, da quello che ho potuto vagamente capire. Sì signore, sto leggendomi come si monta, anche l'ho piazzata una, però mi sto leggendo la situazione qua, per non sbagliare. K, sì, ma vedrai che è facile quella lì, dovrebbe essere anche già rosmetrata se non erro, ci deve essere qualche cosa proprio di minimale, se non erro. Gianfranco, a te. Sì, l'antenna è già tarata in fabbrica, basta fare quei collegamenti e è fatto, l'importante è poi chiuderla bene, metterci del nastro magari vulcanizzato e se ne sta lì tranquilla, pacifica. Io sto usando la antenna, ma nonostante fuori stia piovendo le stazionarie sono sempre, diciamo, sempre in condizioni ottimali, ecco. Non cambia né dal caldo né dal freddo. Mario, ti volevo dire, piuttosto quell'apparecchio mi ha detto che c'ha 30 watt, se li sta usando tutti, di norma questi apparati, perché anche io ho un President, quindi mi sono accorto che se le dai un po' di potenza la modulazione tende a calare, può darsi che sia anche da quello magari, non dare mai tutta potenza, perché con i finali che ci hanno tendono a ridurre la radio, ecco, tutto lì. Ah, stai parlando della regolazione del power della radio come regolazione di potenza? Sì, esatto, più si dà potenza alla radio e più ovviamente tende a calare la modulazione, ecco, è una cosa un po' normale, dipende dai modulatori che sono fatti proprio al limite. Allora, io adesso ho calato e sono a metà, diciamo così, almeno il pomello mi indica a metà. Eventualmente mi dici se è migliorato qualcosa. Niente, una radio comunque originale, cioè nel senso che non è mai stata pompata dall'interno, potenziometro, eccetera. La radio è assolutamente originale, omologata. L'unica cosa è che io ho azzardato a fare una modifica, cioè quella che comunque è diciamo così, predisposta dalla casa, con il ponticello dentro, che si fa con due fili, un interruttore, diciamo così, proprio un interruttorino, ecco, abbiamo lo preso. andare a cambiare, insomma, tutte le bande. Ecco, l'unica cosa è quella lì. Adesso io non so se cambiando banda aumenta la potenza oppure no, non te lo so dire. So che il tecnico mi ha mandato i video da Milano e su WhatsApp mi ha fatto vedere che fischiando dentro il microfono raggiunge i 30 watt in AM, in banda, in FM. Non ha delle, diciamo così, delle differenze di watt nelle bande, ecco, tutto qua. Quindi nasce effettivamente così, anche perché io non gli ho detto di metterci le mani, di aumentare potenza, eccetera, io voglio che sia originale, perciò, proprio per i motivi che, insomma, vabbè, di omologazione, eccetera, non voglio incorrere in sanzioni eventualmente una volta fermato. L'unica cosa è che se mi fermano con il tazzino che è all'interno invisibile praticamente, con uno stuzzicadente, visto che è fatto apposta, e io lo risistema omologato, mi porta in 40 canali normali e via, tutto qua. Il resto è assolutamente originale. Bene, Natalino, oh, quella lì comunque è un'ottima antenna, eh? È un'antenna che secondo me va bene, ne sento parlare bene, non l'ho mai avuta, però sai che la volevo comprare anch'io, poi il prezzo mi ha lasciato un attimino così e ho detto costa troppo e non lo so se vale la pena per la 27 spendere tutti quei soldi, eh? Credo che si possa fare per esempio una roba del genere anche a livello di canna da pesca similare, certo non è fatta come magari la fa l'industria dell'Assirio, però diciamo così ci si può accontentare, ecco, la resa secondo me è più o meno la stessa, tutto lì, poi chiaramente gusti sono gusti, eh. Avanti Natalino. E un attimo che sono al telefono. Sì, ok, allora riprendo io. Ti volevo dire Mario, sì c'è ragione, e così sono radio spesso predisposte anche per andare nella banda dei 10 metri per dove si è autorizzati, si può fare quella modifica lì, ma insomma non è che ce ne siano molte stazioni, l'idea a quel punto si preferisce mettere un apparato proprio amatoriale con anche un pochettino più di potenza, ecco, arrivano di norma a 100 watt. Comunque, l'importante è sentirsi bene, io ti sento, ripeto, benissimo, sia in AM sia in FM. Diciamo, è il tipico omologato così come deve essere, dai. Sì, sì, sì, sì, beh certo, sicuramente, però sai, io non lo so, mi dicevano che aveva una bellissima modulazione, quindi prima che succedesse il guaio, adesso io non voglio dare la colpa al tecnico, per l'amor di Dio, probabilmente, non lo so, sono io che sono un po' così, un po' pignolo su queste cose qua, ma va bene, non c'è problema, si rimedia comunque, roba da ridere. Per quello che riguarda le bande amatoriali, ma guarda, io non ci vado neanche assolutamente, anche perché poi vabbè, se non hai la sigla, l'adiamatore dice ascolta, pedala. Quindi insomma voglio dire, non, no, il discorso delle frequenze è che magari hai canali alti e canali bassi, che quelli, adesso vabbè, tra virgolette ci si può accedere fino a un certo punto, finché rimani dentro la 27, dopo chiaramente no, dopo devi avere la patente. Ma io non mi ci avventuro mai, anche perché poi è un problema, nel senso che devi avere l'antenna tarata, il ROS, eccetera, e poi tra l'altro, ripeto, con chi parli non riesci a parlare con nessuno, perché devi avere una sigla, altrimenti gli animatori non te si fumano neanche, quindi... Questo perché comunque conosco tantissimi radioamatori, quindi hanno comunque l'obbligo di non modulare con uno che non ha la sigla, insomma, ecco, ne fanno anche bene tra l'altro, non si sa mai. E così, anche se, vabbè, una patente non starebbe male, solo che adesso è troppo impegnativo, la mia età, 61 anni, non so, a me piacerebbe molto, e ci avevo provato a prenderla poi per una questione, ma ho dovuto smettere. E... Vabbè, ci stavo ripensando ultimamente, però poi sai, dopo dici ma caspita ci vuole la voglia, bisogna studiare parecchio. E vabbè, sai com'è, 61 anni non è che c'è tutta questa spinta, eh? Vabbè, vedremo, non si sa mai che una mattina mi sveglio e mi scrivo. Avanti Natalino, qualcun altro se è venuto fuori e si è finito, avanti pure. No, ancora sembra tutto tace, sono tutti impegnati a aprire scatole. E niente, niente, sì, c'hai ragione, però insomma, se ti piace, se c'è, è sempre lo stesso discorso, se c'è la passione dietro, l'esame lo si supera, magari dopo la prima sursa, alla seconda ci riesci. Adesso tra l'altro non c'è neanche il fastidio di spostarti, perché attualmente lo stanno facendo online, quindi potresti tentarci, sono 5 domande, ci vuole un po' di fortuna, tutto lì, dipende da come gira la ruota, come al solito. Scappa, ma poi dipende anche dalle regioni, a quanto pare, vi stavo leggendo su internet, perché comunque mi piace tenermi un po' informato anche su queste cose qua, a seconda delle regioni ci sono 8 domande, c'è chi te ne fa 3, c'è chi te ne fa 5, c'è chi te ne fa 6, c'è chi comunque alla fine ti dà l'opzione di risposta nella serie, non so, ti faccio una domanda, qual è quella giusta, la 1, la 2, la 3, cioè capisci? È un po', diciamo così, c'è un po' di confusione per quello che riguarda, non c'è uno standard preciso per tutta Italia, ogni sezione ARI ha la sua, diciamo così, impostazione proprio per una questione di esame, cioè, quindi è una cosa a livello regionale. Però vabbè, sì, come dici tu, chiaramente se si ha la passione si può anche tentare, però sai, io girando anche per quelle frequenze lì, perché tra l'altro possiedo la licenza di SWL con tanto di ricevitori in casa dell'ICOM, non c'è tutto questo, diciamo così, traffico, poi adesso sai, con l'avvento del digitale eccetera è un po' più complesso, ci sono tante cose che insomma sono, ti devi mettere lì proprio, devi, come si dice in romano, ti devi impegnare, e questa è una cosa che veramente io già faccio fatica, come si dice, a fare tante altre cose, proprio a metterci l'impegno di star lì, concentrazione eccetera, quindi dal momento che si ha il baracchino per cambiare 4 chiacchiere, credo che per una persona come me alla fine sia più che sufficiente, ecco, non... Poi vabbè, quando c'è propagazione si arriva anche lontano con il baracchino volendo. E poi nacqui come CB e probabilmente morirò come CB, però ripeto, non si sa mai. C'era qualcuno che fischiava sotto, mi pare di aver sentito. Se vuole venire avanti, ancora buonasera. Questo è O, Gianfranco Sassari, Mario Porto Torres, 56 Greca Sassari, avanti pure. Niente da fare. Sì, ci abbiamo provato. Niente, sì, è così. Ma io dico sempre che è tutta una questione di passione, perché molti si prendono la patente, però non hanno fatto molto ascolto e quindi non sanno praticamente com'è. Di lì diciamo che è più formale la cosa, c'è un certo modo di dialogare, di fare questo. Qua invece è il contrario, è molto informale e quindi si parla di tutto, si gioca, si scherza, di là è una cosa un po' più, capito, più con tante regole, quindi bisogna dire nominativo eccetera, e poi sai, c'è anche un problema di ricambio generazionale, e quindi non ci sono molte persone che sono disposte a fare questo esame, che alla fine è un piccolo esame, però poi si ritrovano deluse perché è un po' così, capito? Non c'è la libertà che puoi avere qua, e in più c'è anche un costo da tenere sempre presente, perché gli apparati comunque, le antenne e così via, hanno tutti altri prezzi, ecco, tutto lì. Ancora un po' di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare. Sì, no, ma infatti guarda, io avevo questo amico a Bologna, un ingegnere elettronico, lui proprio la patente l'ha avuta proprio perché è laureato in ingegneria elettronica, costruiva apparati per tale operatori, e quindi voglio dire, era una persona che comunque era dentro, immerso nell'elettronica fino al collo, e lui però spesso modulava sulla 27, nel senso che la sera quando voleva fare dei QSO li faceva in 27, poi che chiaro se doveva collegare gli americani, se non andava su altre frequenze. Però è chiaro, certo, lì ci sono delle regole, delle leggi da tenere presente, insomma, non devi, bisogna essere delle persone serie, come, come dico giustamente fra virgolette, ecco, perché le persone serie si trovano anche sulla 27, non solo. Perciò sì, ad esempio io abolirei la patente e farei delle altre cose, farei dei test senza la patente, capito? Perché tutte queste leggi, tutta questa burocrazia che c'è in questo paese, secondo me non ha modo di esistere, ecco perché poi stanca le persone, capito, a poter accedere anche a determinate frequenze. Io non so, farei dei controlli un po' più, come si dice, un po' più, non lo so, un po' più dettagliati, non lo so, un po' più presenti, perché non ci sono controlli in questo paese, ci sono le regole ma i controlli non esistono, hai capito? Oppure se ci sono proprio in extremis della serie deve proprio arrivarti una denuncia, perché altrimenti io ho sentito anche nei fonti radioamatoriali VHF e OHF gente, ma gente veramente che faceva dei numeri impressionanti, cioè delle cose fuori dal mondo. E l'hanno sempre avuta vita, nel senso che l'hanno sempre scampata, hai capito? Perciò voglio dire, vabbè, bisogna vedere, cioè, un po' tutto da rivedere, ecco, per quello che mi riguarda. Poi non lo so, è un mio pensiero, io abolirei la patente comunque, farei delle altre regole, delle altre cose, ma la patente proprio la leverei a prescindere. Poi chiaramente, come dicevi tu, è un'attività onerosa, perché costano le radio, costano le antenne e poi ci sono delle responsabilità, chiaramente, che tu metti sul tetto una roba del genere, tipo una direttiva eccetera, cioè qualcosa, devi avere i soldi per coprire eventuali danni, devi fare le cose in regola, quindi cosa c'è di più bello che mettere un'antenna fuori dal terrazzo e parlare con quelli vicini, insomma, è un po' meno complicata la cosa, senza niente togliere per l'amor di Dio e degli amatori, perché chiaramente chi se lo può permettere secondo me fa anche molto bene, quindi. Però ripeto, è come dicevi tu anche, ci vuole la passione molte volte di diciamo così, ti induce a spendere ed essere felice di spendere, ad esempio, tutto lì. Comunque vabbè, insomma, vedremo, per adesso rimango qui come sono, anche perché con tre barchini che ho vado benissimo, eh. Avanti se sono arrivati quelli che avevano fatto quel Rix. Niente, tutto touch. Ma guarda, su alcune cose da radioamatore ti posso anche rispondere. No, non è burocrazia solo nel senso perché ci sono delle regole o perché ci sono dei controlli. I controlli ci sono, però ci sono alcune differenze da tenere presente. Molte frequenze o molte bande anche radioamatoriali sono spesso condivise con dei servizi prioritari. Ti faccio un esempio per tutti: il 160 metri è allocato molto vicino e spesso anche in sovrapposizione con delle stazioni costiere che fanno traffico marittimo, e quindi è molto importante che chi studia e chi prende una patente sappia che ci sono queste missioni, ci sono poi le regole stabilite non dal governo italiano ma in seno internazionale, tipo la IARU e così via, in cui certe frequenze HF vengono allocate con estrema attenzione. E quindi bisogna sempre pensare che lì non si è soli, che quando si sente e si riconosce una trasmissione che magari tu sei nell'SB e quelli sono in USB, se sei in statuto secondario sei tu che ti devi spostare, zitto zitto, ti togli d'impiccio e ti lasci comunicare. Poi ci sono le frequenze in cui si può operare tranquillamente perché sei in statuto primario, quindi il Ministero o comunque gli organi internazionali ti hanno assegnato proprio a te per il servizio di radioamatore quelle frequenze. La cosa per uno che ha la passione è quasi ovvia, per molti si tratta purtroppo di avere solo gli apparati e basta. Quindi poi con l'avvento del digitale, figurati, senti, metterti sopra un segnale digitale, magari quel segnale proviene da una stazione per la navigazione aerea, come ce ne sono tante in ad esempio in 40 metri, in 45 metri e così via, sono cose serie, ecco, capito? Quindi ci vogliono persone che sappiano quando premono pulsante quello che stanno facendo. Quindi non è così semplice, ci vogliono sempre degli appassionati. Sì, ma guarda, sicuramente non lo metto in dubbio, non lo metto in dubbio, la passione ci deve essere, altrimenti che cavolo te la piglia a fare una radio? Deve essere anche una passione per i CB, per dire, solo che qua sai, c'è quella manettina che ti di canali, poi sei già a posto. Ovviamente chi ha un apparato amatoriale in HF, come tu dicevi prima, visto che ci sono delle missioni anche a livello governativo, navale, aeree eccetera, sui 45 che io ascoltavo tranquillamente eccetera, quindi si è vicini, ma sai, con un po' di ascolto, quando tu fai una scuola, no, da radioamatore, ti metti lì sulla radio e capito, e uno ti insegna, guarda, qui non ci devi andare, questo non lo devi fare, quest'altro non lo devi fare, tranquillamente. Invece credo che nessuno faccia queste cose qua, almeno io nel corso che ho fatto, che non ho finito tra l'altro a Bologna, sezione Ari proprio di Bologna, centro Bologna, e non c'era una stazione radio su cui metterti lì e farti vedere come funziona eccetera, c'era soltanto chi ti dava delle spiegazioni alla lavagna, poi chi ti dava il compitino magari, capito, e poi c'è i suoi due libri, uno di legge e l'altro di tecnica, cioè di regolamenti e l'altro di tecnica, quindi alla fine insomma te le devi studiare tu. E comunque secondo me è una cosa che fa molto bene, è fare molto ascolto, sai più o meno cosa sono determinati segnali, poi io, sai, avendo un ricevitore abbastanza professionale, il computer con installato il software, ti vai a vedere la decodifica RTTI, CW, tutte queste robe qui, insomma, che vabbè, per uno che ha la passione, capito, sta lì, almeno capisce di cosa si sta parlando, ecco. Poi è chiaro che non è che vai a disturbare apposta, hai capito? Se ci sono dei servizi, giustamente come dicevi tu, esposti, visto che la priorità è la loro, hai capito? È che a me non sembra nemmeno giusto condividere determinate frequenze, perché diciamo così, i radioamatori devono avere le loro frequenze e il civile deve avere le sue frequenze, hai capito? Quindi, ad esempio, a me nell'SWL che mi hanno dato, io quando lo giro vedo le frequenze dove posso ascoltare, ecco, tutto lì. Poi è chiaro che si spazia, perché i ricevitori di oggi, si sa, hanno di tutto e di più, perciò è difficile stare lì, hai capito, dentro quei parametri. Però, insomma, te lo dicono almeno, hai capito, quindi già lì è una cosa che impari, che sai, ecco, tutto qua. Avanti se c'è qualcuno. Natalino e gli altri non sono rimasti scioccati. No, anzi, no, Natalino si sta guardando l'antenna e poi l'hanno chiamato al telefono anche. Di Luca abbiamo perduto le tracce e poi facciamo anche un altro po' di bianco, vediamo un po' se c'è qualche coraggioso. Ma forse l'acqua ha l'effetto inverso alle lumache, capito? Quando c'è l'acqua ci sono le lumache, quando smette le lumache rientrano. In effetti il tempo promette. Sì, vabbè, se c'è qualcuno già entrerà, noi siamo qua. Capito con la questione, oggi poi è molto più difficile perché assegnare delle frequenze non è così semplice a livello mondiale, perché tipo l'HF ha degli alti e bassi, quindi con l'avvento dei satelliti sembrava che fosse finita l'era dell'HF, e invece con l'avvento dell'HF digitale, soprattutto per i militari, sono molto, molto ambite. E allora hanno riacquistato il valore che effettivamente meritano. perché a differenza delle frequenze diciamo un po' più altine, ecco, nell'ambito del VHF lì si può operare tranquillamente via satellite, però il satellite rimane comunque un oggetto che è lì, quindi vulnerabile o per chi c'è mezzi facilmente anche intercettabile, anche se adesso ci sono delle codifiche molto complesse, ma se parliamo a livello di stati, di governi, insomma loro ce ne hanno le apparecchiature, capito? Mentre l'HF è una cosa che non ha bisogno di altre infrastrutture, c'è una stazione che trasmette e una che riceve, boh, non ci sono satelliti, tu puoi fare anche sparare al satellite un raggio laser e disintegrarlo, mentre invece la stazione HF devi andare a cercarla, ecco. Anche perché anche lì, ripeto, con la trasmissione in digitale in pochi secondi ti manda un'intera pagina con scritto posizioni e insomma tutte le cose che interessano a loro. Tutto lì. Tu pensa che i 45 metristi li hanno dovuti far fuori, fare tutti fuori forzatamente, e qualcuno ha pagato molto caro il fatto di andare su quelle frequenze, perché c'era stata all'epoca nei confronti dell'Italia e di altri paesi una comunicazione della RAF che queste persone così in maniera abbastanza leggera disturbavano i vari servizi meteo dalla RAF. A quella hanno seguito altre proteste anche di agenzie di volo civile e così via, perché pochi lo sanno, ma gli aerei hanno tanti sistemi che lavorano anche in HF. Tutto lì, Mario, ancora a te. Ah, Chiappa, sì, questo lo so, si sentono anche, io li sentivo e adesso vabbè, io l'ho staccato il ricevitore perché purtroppo ho dei problemi di QRM e poi vabbè c'è un'antenna che secondo me non è molto adatta per un ricevitore come ce l'avevo su a Bologna c'aveva un antennino che andava molto bene, mentre qui ho dovuto staccarlo, infatti lui sta dentro una scatola tranquillamente a riposare. E niente, quindi li sentivo perfettamente, certo che sì, sentivo anche quelli che stavano sui 45, i famosi pirati dei transverter oppure proprio degli apparati amatoriali che venivano usati su quelle frequenze lì, e quindi molti ci davano dentro anche, caspita, sentivano benissimo, sentivano i siciliani, i calabresi, i napoletani, un po' da tutta Italia, insomma una frequenza che era molto, molto frequentata. E infatti secondo me anche lì sì, qualcuno l'ha pagata cara, perché poi sai, forza di dai e dai, tanto va la gatta all'altro che ci lascia lo zampino, si dice. Però ecco, bisogna sempre che partano delle lamentele, delle cose, perché capito, lì si poteva bloccare subito il discorso, sui 45, con i controlli giusti, capito, andarli a prendere subito e via, farli smettere di modulare. E invece sì, almeno questa roba qua è andata avanti per anni, io ho conosciuto persone che, ti dirò, non dovrei dirlo, ma anche radioamatori che frequentavano quelle frequenze lì con apposite antennine sui terrazzi, eccetera, però ci andavano anche loro, perché queste frequenze erano comunque un po' lo sbando, ecco. Però ecco, io adesso non sento più, cioè almeno fino a quando avevo il ricevitore installato non sentivo più nessuno. E questo è già un buon risultato. Poi ripeto, io, vabbè, sono sempre per un po' di libertà, ecco, dopo magari si chiude troppo e così si fa anche smettere la gente di avere la passione, in un certo senso. Però almeno a noi come CB potrebbero darci una frequenza che va un po' più lontano, no? Tipo ad esempio io li vedrei bene i 28, hai capito? Che non sono molto frequentati dai radioamatori. Vedrei bene come, diciamo così, un proseguo della 27, quindi 27 e 28 secondo me possono essere concessi anche ai CB. Magari sto dicendo una cazzata, però è un mio pensiero. Tanto che vedi, adesso fanno appunto queste radio qua che tu ci puoi andare, ecco, quindi. Però sa, è un po' una cosa particolare, va. Vedremo in futuro cosa succederà, mannaggia. Bene Gianfranco, è stato bellissimo parlare con te, guarda, io adesso mi metto in cammino e me ne torno a casa, anche perché mangio anche abbastanza presto, quindi sono venuto a fare un giro a Sassari, ho approfittato per fare benzina qui perché costa un po' di meno e adesso mi avventuro verso casa, quindi ti rilancio il microfono, eventualmente se c'è qualcun altro che era in QRX che vuol venire avanti non ci sono problemi. Mario, a modulato. Sì, ciao. Allora va bene Mario, noi siamo qua, io rimango ancora un po' qua a chiacchierare, c'era stato anche un altro intervento da un altro collega, facciamo subito venire avanti. Avanti Claudio, allora oggi come va? Io già ne abbiamo fatto 80 e quindi siamo contenti così. No, sono entrato solo a dire a Mario a pensarci, a tenere il suo pensiero, ma qui dobbiamo trovare dal canale 1 al canale 40, come tutti i CB, compreso io. Io però mi posso spostare il 28 come ieri, che ero il 28 e 500 con il collega Ario Mattoni. Va bene, quindi tieniti il tuo pensiero, ma sarà molto difficile. Ci sentiamo Gianfranco, sto aspettando che sono in WhatsApp. Voi continuate a fare 27, vedremo se venite. Niente, io mi sto facendo un po' di prove e provette, sia in VHF, in HF, in HF, ieri abbiamo fatto una chiacchierata tutti il 28. Va bene, dai, ci sentiamo, ciao. Scusa un attimo Gianfranco, devo rispondere a Claudio. Quindi Claudio, tu non saresti disposto a dare una fettina di 28 CB con tutte le frequenze che avete, VHF, HF, insomma, annaggia la miseria. Buonasera, comunque ben sentito. Ma non ci sto manco pensando, guarda, non ci sto manco pensando a dare niente della mia fetta, assolutamente. Chi la vuole se la compra, studia e se la compra la fetta, gratis non diamo niente. Immaginavo, ovviamente ognuno ha le sue idee, giustamente anche per la miseria. Va bene Claudio, dai, ci sentiamo, buona serata, state bene, io mi avvio, anche tu Gianfranco, buona serata anche a te e ci sentiamo alle prossime eventualmente. Ciao a tutti, anche quelli che stanno ascoltando, avanti Gianfranco. Sì, ok Mario, ciao, buon rientro e buona serata. Claudio, un info, ma il nostro amico poi cosa ha preso il micropanico oppure sta operando solo l'Ades? No, non ho sentito, infatti ieri pensavamo che entrasse, però non è entrato, quindi non lo so. Non lo so, so che è impegnato, siamo visti perché ero ieri, sono andato a invertire le gomme e quindi niente, non lo so. Non lo so, io gli ho detto di entrare, di farsi un po' di cultura, di farsi un po' di ossa lì, perché è inutile che abbia fatto questo sacrificio e poi non entra, ieri eravamo tutta la sera lì noi, e anche stasera sicuramente. Va bene, beh, ti lascio già fare, che è arrivata mia figlia, sono voci, stanno chiacchierando un casino, tu me ne passo il WhatsApp comunque. Sono attivo sulla diretta, R7 Alfa, diretta UHF, poi in HF non lo so se ci spostiamo di nuovo in 10 metri oppure facciamo qualche altra cosa. Va bene, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sì, ok, c'era anche Marco qua, ma era sceso per prendere un pacco che gli è arrivato, poi non è più rientrato, probabilmente sta scartando ancora qualche regalo. Ok, ciao Claudio, ci sentiamo dopo se ci sei, dai. Non c'è problema, ciao ancora Mario, buon rientro a Porto Torres. Vediamo un po' chi è rimasto qualcuno, Natalino, Marco? Luca? Io sono rientrato anche dal telefono purtroppo, che mi hanno telefonato e stavo parlando al telefono già qua, sono rientrato adesso. Ok Natalia, Mario sta rientrando, ci ha salutato, quindi ritieniti anche tu salutato. Niente, quindi c'è tutto a posto, tutto in ordine. Allora stanotte quindi sali e piazza tutto. Sì, aspetto che faccia un po' di bel tempo e la piazzerò. Ok, intanto mi devo procurare tutto il materiale per piazzare, perché la piazzo bene questa volta. Beh, possibilmente sì. E mi raccomando, stanotte, se sale sul tetto a piazzare l'antenna, non salire con quelle torce a LED che fanno troppa luce. E poi qualcuno si impestisce, usa la candela. Se rimane accesa, sì. Ma c'ho quella lampada per pescare, quella a LED, che si mette in testa. No, non va bene quella. Guarda, al massimo proprio... proprio esagerando, una di quelle lampade tipo lumicino, no? Quelle che si usano in quel posto, così almeno non desti l'attenzione. E quelle che si usano a San Paolo con Brasile. Natalino, questa sessionantella, ogni cosa per te un'avventura. E adesso mi devo procurare la mantellina, perché con Marco andavamo a accendere i capi dei puli di notte. Anche se quella, non so se quella si vedrà di più o di meno, però adesso dicono, potrei avere quelli di fronte a cui, diciamo, che disturbavi, probabilmente ti vengono anche gli altri dall'altra via a dire mi, ecco chi disturba. Adesso come vedono questa cosa lunga, non sanno cos'è. A parte gli scherzi, Natali, quando la monti senza fretta, stando attento e soprattutto la cosa più importante è avere a portata di mano uno strumento, in modo da controllarla prima di piazzarla, la metti di lì un attimino attaccata a qualche ringhiera, eccetera, e ne vedi il comportamento, se c'è un errore così te ne accorgi, non stai a piazzare, a togliere, a ripiazzare. Sì, non c'è problema, perché... Vabbè, Natali, io stavo come al solito anche facendo dei test su un apparecchio che è arrivato, quindi gira, me ne torno lì, sono sempre in ascolto qua, però lavoro anche là, perché è una cosa un pochettino, come dire, complicata. Vabbè, se devi fare cosa, vai a farla, non c'è problema, già rimango in ascolto io qua. Tanto tra un po' me ne devo andare, verso le 7 me ne vado, che devo cenare, capito? Sì. Anch'io voglio cenare presto. Ma ascolta, ma gli altri invece tutto bene, sì, Giulio, gli altri che entravano prima. Non ho capito. Ti ho chiesto se quelli che entravano prima stanno sempre entrando, mi riferisco a Giulio ad esempio, anche agli altri, perché è già due giorni che c'è poco traffico. E si saranno stancati, cosa ne so, neanche io non l'ho sentito a Giulio. E quando gli aggrada già entrerà. Ok, va bene Natali, allora dai, rimaniamo in ascolto, se c'è qualcosa siamo qua. E ok dai, tanto io poco posso modulare, c'è l'antenna quasi a due le stazionarie, insomma. E basta che tieni la potenza un po' abbassata, in modo da non forzare il finale. E cosa, qua non si può regolare nulla. Da 4 watt. E vabbè, c'è un baracchino di quelli da combattimento, già va bene allora. Certo, queste stazionarie poi vanno a influire anche sul solito problema. E infatti, vabbè dai, ci sentiamo, rimango in ascolto io. Se devi fare cosa, buon proseguo. Ok, siamo qua. anche io sono in ascolto, dai, mi dedico a quello che stavo facendo prima. C'è nessuno? Eccoci qua, vediamo un po' se c'è qualcuno in ascolto. Ciao Marco, ci sono sempre io. Allora, cosa c'era dentro questo pacco? Belle cose, Gianfra, belle cose. Stavo aspettando dalla Bulgaria che mi arriva il transfer per i due Tigers, finalmente arrivato. Finalmente. Ah, sempre per quel discorso del satellite. Marco, sei un po' lontano rispetto a me, perlomeno. Ma forse avete visto, ero sulla bretella all'ingresso di Sassari, da Viale Portottore. Adesso sono via Sicilia, lì di via Sicilia. Come mai c'è le ruole, le ruspente? Sentito, vai Marco. No, ho sentito che è la voce di Claudio, ma non ho capito che cosa ha detto. Ho detto, come mai c'hai le V e le U spente? Perché sono con la cinta qua, la rago dovuta montare sulla basetta che è andata con il capito periodicamente a questa basetta centrotetto, che si è rovinata e devo riportarla sugli reggerini, un casotto, però devo farlo, ma adesso appena mi darà un po' il tempo. Ma sei con la macchina piccola? Ma no, non sei tu però, Macchina piccola, segnale piccolo. Lo so, poi questo è... C'è un radio che l'ho cancellato. È un attacco, capito, di quando facevo il radio, prima di dedicarmi alla cucina. Il radio è più o meno... Ma è piccolo, basso e nero. Vettino, mamma mia. Spaventare, che prepotenza, che avessi avuto quel fisico, che avrei vissuto veramente di prepotenza. Buonasera a tutti, no, ho il computer, vi ho sentito e sono entrato a salutarvi. Scappa, tu arrivi fortissimo, io sono in Viale Sicilia ancora, vediamo un po' se ha sentito Claudio. Tino, no, non ho sentito, ho fatto solo la colonnina. Ciao Tino, buonasera, buon ascolto, ciao anche Gianfranco. No, sono i Quirix, sei Marco, ho sentito Walter sull'R7 Alfa, dice che il capannone. Ho chiamato anche a te, però non mi ha risposto. Va bene, ci sentiamo dopo magari in V, dai.